9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon giovedì 5 di maggio, buon Sant'Irene. In particolare c'ho una cara amica che deve studiare, si chiama Irene. Io faccio le veci del padre che non c'è, da dire che deve studiare. Ma comunque, al di là di tutto, oggi ci occupiamo in questa trasmissione di una questione molto delicata, a mio giudizio, perché io capisco che nel calderone delle tante accuse e controaccuse, accuse soprattutto rivolte a Silvio Berlusconi, è il leader politico italiano che ne ha totalizzato il maggior numero rispetto alla sua carriera politica, anzi, il suo confronto con la giustizia, il suo difendersi dalla giustizia, il suo difendersi dai processi e talvolta anche nei processi, è uno dei tratti caratteristici di questa anomalia politica, personale, di Silvio Berlusconi, da che 17 anni fa decise di non lasciare l'Italia a coloro che sembravano in grado di ereditarla automaticamente per via di mani pulite. Ma tra le tantissime accuse, le ipotesi per cui è stato indagato, le ipotesi per cui è stato rinviato a giudizio, le accuse per cui è sottoposto o è stato sottoposto a processo, una in particolare mi ha sempre lasciato, devo dirvi la verità, molto perplesso, perché per il mestiere che faccio, per ciascuna delle decine di accuse, io un'idea me la sono sempre fatta guardando le carte, dedicando molte ore come compito di chi poi fa informazione, e a dirvi la verità, per questo, su questo si basa la mia convinzione del fatto che poi Silvio Berlusconi da una parte non abbia fatto tutti i torti nel sostenere che ci sia un disegno nei suoi confronti da parte di chi gli eleva sistematicamente così tante accuse. Molte fattispecie non avrebbero creato, applicate ai fatti a cui sono state applicate, procedimenti, se non a patto di interpretazioni molto estese, diffuse e così via. Quindi, dall'altra parte, certo, una caratteristica di disinvoltura di Berlusconi, quando si parla però di questioni societarie eccetera, c'è, come c'è in vasta parte però della vita economica italiana. Questa non è affatto una soluzione, non è affatto un giudizio su 17 anni di scontro sulla giustizia, perché poi la mia opinione è che lo scontro sulla giustizia andava dato con una riforma organica della giustizia, e questo è altro paio di maniche. Non c'è mai stata, e quindi poi alla fine diventa una colpa pesante politica aver ridotto la questione della giustizia rispetto a chi gli dava i voti alle accuse da cui difendersi in Parlamento e le leggi al persona. Ma tra le tante, e ho praticamente quasi concluso perché dirò pochissimo all'inizio di questa trasmissione, ce n'è una che mi ha sempre invece molto inquietato, lasciato molto perplesso, anche perché io devo dichiarare, l'argomento di cui si parla oggi, non si può essere specialisti di tutti, non è un argomento sul quale io possa davvero dire di saperne più di voi a casa. Mi ostino a leggere molti libri, ma la conoscenza metodica di milioni di atti e di carte qui io non ce l'ho, perché non si può fare tutto nella vita, perché oggi parliamo di mafia e perché l'accusa che tra le tante mi ha sempre lasciato molto perplesso è quella che da un certo punto in avanti nella vita italiana ha iniziato a serpeggiare nelle ipotesi, negli atti processuali, negli interrogatori di pentiti da parte di pubblici ministeri, e poi alla fine è diventata materia di processi. E questa accusa è quella per la quale dietro gli attentati del 93, gli attentati di via Giorgofili, di via Palestro a Milano, dove morirono tre vigili del fuoco, un vigile urbano e un immigrato marocchino, a via Giorgofili la notte del 26-27 maggio 1993. L'esplosione di un furgone vicino all'Accademia Giorgofici provocò la morte di cinque persone, e poi l'altro attentato, quello tra il 27 e il 28 luglio 1993 a Roma, un'altra autobomba che danneggia gravemente la chiesa di San Giorgio al Velabro, poi un attentato a San Giovanni, la sede la sede vicariale romana. Ecco che dietro questa serie di attentati del 93, che inaugurarono una strategia nuova della mafia, una strategia in cui si colpivano luoghi dell'arte, posti monumentali, posti simbolici che evocavano un nuovo ventremolle identificato dalla mafia come molto delicato su cui colpire, ci fosse una strategia precisa, quella di avviare una trattativa, quella di un ricatto nei confronti dei vertici dello Stato, la la questione era quella del cosiddetto papello, se ne parla da tanti anni, c'è una serie di richieste che i vertici della mafia consegnavano alla politica, chiedendo alla politica la modifica dei regimi di trattamento carcerario, che in tutto questo, fin da allora, fin dal 93, ci fosse come interlocutore o come uno dei principali interlocutori dei vertici della mafia in Italia, Silvio Berlusconi, identificato come colui che avrebbe preso in mano l'Italia tempo dopo, questa può essere un'ipotesi, oppure identificato come il garante ancora in sonno di poteri criminali che dovevano spazzare i governi tecnici invece difensori delle virtù della Repubblica Democratica in uno dei suoi momenti più difficili di passaggio. Ecco, queste ultime parole che ho pronunciato, alcuni dei bivi più inquietanti secondo me, perché siccome l'ipotesi che c'è nel più degli atti giudiziari è quello che adombra l'ipotesi di un Berlusconi o capo di un politica ancora non rivelata ma considerato già capo della mafia, oppure garante o strumento di una mafia che lo utilizzerà poi per sbaraccare chi invece si oppone alla mafia. Voi capite che capire meglio quelle pagine delicate di storia giudiziaria, di storia italiana, e capire i tempi, i modi, chi ha avuto la responsabilità di fare che, chi questo papello l'ha preso, se mai l'ha preso, chi ha davvero allentato il regime del 14, il regime del 416 bis, cioè quello della carcere ristretto per i vertici mafiosi, tutto questo, e ho concluso, è qualche cosa che ieri con la deposizione di Giovanni Brusca che avete trovato sui giornali, a mio giudizio ancora non ha aggiunto alcun vero elemento di chiarezza. Giovanni Brusca ha detto: la trattativa ci fu, il premier non c'entra con le stragi, il papello era destinato a Mancino, però ha detto Berlusconi sapeva, e quindi siamo sempre, per quello che riguarda me, mero osservatore, in una atmosfera caliginosa che non mi consente di capire davvero alcunché. Gli ospiti di oggi, e chiedo a loro di dirmi invece il loro punto di vista e la loro ricostruzione dei fatti per quello che hanno capito in quel delicato momento. Abbiamo con noi Fabrizio Rondolino, che è un giornalista, scrittore con un blog che cura insieme a Claudio Velardi. Il blog si chiama www.thefrontpage.it. Chiede amico Rondolino, io non volevo che dicessi che sono anche un lettore accanito di tutto quello che scrive, ha scritto questo libro sull'Italia che è una specie di pamphlet di vecchio stile da destra storica, se posso dire, un po' procede la gattina, perché ha scritto un libro in cui dice che l'Italia non c'è mai stata neanche per 5 minuti, l'Italia è un puro prodotto di un'illusione e l'Italia è dai tempi del 500 che non tira su la testa e non esiste. È un libro, devo dire, di una certa forza, che si legge come un vecchio pamphlet di quelli, però che forse consentono di avere qualche elemento positivo più di quanto non volesse l'autore nello scriverlo. Buongiorno e grazie a Fabrizio Rondolino. Buongiorno. Davide Giacalone, editorialista di Libero, che conosco da molti anni e stimo tantissimo, ed è una persona che mi ha fatto molto riflettere con quello che ha scritto da mesi e mesi a questa parte, puntualmente ogni volta che un pentito dichiarava, rilasciava, eccetera, eccetera, nella ricostruzione esattamente dei fatti di cui parleremo oggi. Quindi per me la sua ricostruzione è centrale. Lo dico prima, a scanso di equivoci, grazie e buongiorno a Davide Giacalone. Buongiorno, grazie, stima ricambiata, buongiorno a tutti. Giuseppe Sottile, giornalista, scrittore, collaboratore del Foglio, mitico compagno di lavoro qualche anno fa, un grandissimo raccontatore e osservatore giornalistico delle vicende siciliane e della mafia fin dai tempi della mitica palestra dell'ora, quindi stiamo parlando della grandissima scuola del giornalismo palermitano. Buongiorno Giuseppe Sottile. Grazie Oscar, buongiorno. Allora Davide Giacalone, io comincerei da lei, comincerei dall'impressione che ha avuto da questa deposizione di Brusca, e però le chiederei di anticiparci subito, prendendosi qualche minuto, perché di questo dobbiamo parlare, la ricostruzione che dopo anni di indagini delle procure e atti giudiziari lei è in grado di proporci di quello che avvenne in questa trattativa, da una parte, chi ne furono i protagonisti veri secondo lei, e chi e quando di preciso, rivestendo quali responsabilità politiche, in realtà ha proceduto lì al rallentamento, all'allascamento del regime carcerario con la mafia. Fu Berlusconi, fu non Berlusconi, chi, come e perché secondo lei? Allora, io riparto dalla ricostruzione che lei ha fatto introducendo questa trasmissione, questa nostra riflessione, perché noi veniamo da anni e anni nel corso dei quali la ricostruzione, diciamo, la versione più facile era più o meno la seguente, cioè nel 1992, tra il 1902 e il 94, insomma, a partire dal 92 comincia a crollare la Prima Repubblica, i partiti si disfano sotto i colpi delle inchieste giudiziarie, si fa avanti una nuova Italia più pulita, più seria, più tecnica, va al governo per esempio Carlo Azeglio Ciampi, prima governatore della Banca d'Italia. Contro questo cominciano a muoversi interessi occulti, si muovono per esempio i mafiosi, e in qualche modo il collegamento con il futuro politico, futuro potere politico, quello di Silvio Berlusconi, cominciano a scoppiare le bombe che intimidiscono l'Italia e la riportano in qualche modo nei binari dei poteri consueti. Guardate che questa non è solo una ricostruzione, diciamo così, un po' volgare, naturalmente io l'ho fatta molto breve. Questo è buona sostanza anche quello che sostiene lo stesso Carlo Azeglio Ciampi, che nei suoi libri e nelle sue memorie, come in diverse interviste, ricorda puntualmente le bombe della mafia erano contro il suo governo e che il suo governo non ha mai ceduto nulla, infatti è caduto lasciando spazio poi ad altri. Il successore fu poi Silvio Berlusconi dopo le elezioni del 1994. Ora, rispetto a questo scenario, e posto che l'idea che qualcuno racconti, come è capitato purtroppo, la vera storia d'Italia è un'impostura in natura, quel massimo che possiamo fare è invitare le persone e noi stessi a riflettere sulle date, allora vi chiedo qualche minuto di pazienza e mettiamo in fila le date che poi spiegano quasi tutto. Le date sono estremamente indicative. Ciampi diventa capo del governo nell'aprile del 1993. La prima bomba mafiosa, strana perché normalmente in passato non avevamo assistito a strategie e attacchi di questo tipo, la prima bomba mafiosa è del 14 maggio in via Fauro a Roma, fallito attentato a Costanzo. Segue il 27 maggio la bomba a Firenze, i Georgofoli, 5 morti. Il 27 luglio via Palestro, Milano, altri 5 morti. Attenzione, i 5 morti di Firenze, i 5 morti di Milano non sono morti voluti, sono in qualche modo morti accidentali. Cioè queste bombe non vengono messe in un centro commerciale o in una metropolitana, vengono messe in luoghi dove potrebbero esplodere senza far vittime. Invece il caso vuole che delle persone passino, qualcuno si avvicini, nel caso di Milano c'è un senza casa che vede degli strani movimenti e purtroppo ci lasciano la vita. La bomba successiva è il 28 luglio, sono due contemporanee, la notte del 28 luglio, San Giovanni in Laterano e San Giorgio a Velabro a Roma, come lei ha ricordato, due luoghi che sono a metà fra il culto e l'arte. All'epoca si scrisse, poi molto si è ragionato, ma come i mafiosi hanno individuato questi obiettivi? Pensando all'arte. Ora in effetti se uno pensa a dover far clamore mettendo la bomba in un posto noto nel mondo, cioè è disponibile il Colosseo, ancora oggi è abbastanza non controllato. Invece scelgono appunto la sede del Vicariato di Roma e San Giorgio del Velabro. Poi il 31 ottobre, raccontano i pentiti, il 31 ottobre del 1993 era invece in organizzazione una bomba diversa, doveva scoppiare allo Stadio Olimpico di Roma e far saltare in aria non tanto i tifosi o i giocatori quanto i carabinieri. Dovevano morire molti carabinieri, 31 ottobre del 1993. Quella bomba non scoppia, fa cilecca, cioè le altre bombe non fanno vittime o comunque fanno vittime accidentali, questa invece fa clamorosamente cilecca. Dopo questa bomba che fa cilecca, finisce la stagione delle bombe. I mafiosi smettono di metterle e cosa succede? Succede che, ripeto, 31 ottobre, l'ultimo attentato, quello fallito, nel novembre del 1993 l'allora ministro della giustizia Giovanni Conso, come ha ricordato egli stesso, ministro del governo Ciampi, toglie dal regime del 41 bis due scaglioni di mafiosi, non sono mafiosi di primissimo livello, non sono, diciamo così, i capi, ma sono, diciamo, all'insieme circa 400 persone che finiscono di scontare il carcere duro. Il 41 bis, prima utilizzato moltissimo. Perché Conso toglie dal regime di 41 bis di carcere duro questa gente, dice Giovanni Conso, sono parole sue, l'ho fatto per alleggerire la tensione, perché bisognava fermare le bombe di mafia. Lo dice lui, non è che è una supposizione o qualcuno gli ha messo in bocca. Dice questo. Come fa Conso a immaginare una cosa di questo tipo? E chiudo con questa ricostruzione affrettata, ma credo necessaria. Gli viene in qualche modo suggerita dal capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che era cambiato da pochissimo, perché prima il capo di quel dipartimento era Niccolò Amato, particolarmente inviso al nuovo inquilino del Quirinale, che all'epoca era Oscar Luigi Scalfaro. E il 26 di giugno il 26 giugno viene dato un documento dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria al Ministro della Giustizia, nel quale gli si dice forse la cosa migliore è alleggerire il regime di 41 bis, perché in questo modo si crea una distensione. A firmare questo documento è il nuovo capo del DAP, che è Alberto Capriotti, uomo molto vicino e amico di Oscar Luigi Scalfaro, che viene segnalato da due personaggi importanti, Cesare Curioni e Fabio Fabbri. Il grande pubblico non li conosce, ma è il capo dei cappellani penitenziari e il suo assistente, quindi diciamo in qualche modo dagli ambienti del Vaticano. L'Alberto Capriotti si insedia, prende il suo posto il 14 giugno del 1993, ci mette 12 giorni per chiedere che venga allentato il 41 bis, quindi sapeva già cosa doveva fare. Questo viene fatto, da quel momento, esattamente come Conso dice, finiscono le bombe mafiose. Concludendo, se le bombe mafiose servivano per eliminare il 41 bis, come sempre è stato ripetuto, quel 41 bis è stato attenuato dal governo Ciampi e dal ministro Conso su suggerimento del capo del dipartimento Capriotti, voluto da Scalfaro. In tutto questo non solo il governo di centrodestra successivo, quello Berlusconi, non c'entra nulla, ma successivamente a quelle due scelte di Conso il 41 bis viene regolarmente ripristinato, quindi si fa l'esatto contrario. Questi fin qui sono fatti, non interpretazioni con i quali bisognerà pur fare i conti. Ecco, naturalmente, come vedete, se questi sono i fatti, se c'è un direttore degli affari penitenziari al Ministero che salta, ne arriva uno indicato da Scalfaro direttamente, e Conso stesso, allora ministro del governo tecnico, dice dovevamo alleare la tensione, e così si procede all'allentamento del regime penitenziario per i mafiosi, a me pare che se queste sono le circostanze di fatto, non lo so, potete pensare quello che volete, io immaginavo, sono immediatamente arrivate una batteria di sms che mi dice che mi devo vergognare, li riassumo tutti senza che dica mi devo vergognare, perché ovviamente è un lurido teatrino per difendere Berlusconi sotto le elezioni, è una congrega di bricconi berlusconiani quella che io avrei qui raccolto, non ho faccia né vergogna, Gomez travaglio tutta la vita, io sono, guardate, io non legittimo le vostre opinioni, il problema è che da anni e anni però noi stiamo dietro la pista di procure e di magistrati che ci indicano incessantemente un'altra tesi. Forse è il caso anche di considerare gli elementi di quest'altra tesi. O pensate che sia perché si va a votare e mi pagano per questo? Ecco, io mi limito a dire questo. Queste ricostruzioni di fatto, che Davide Giacalone vi ha appena offerto, offrono o non offrono, a vostro giudizio, degli elementi in base ai quali in larga misura le ipotesi su cui da anni i pentiti vengono portati a deporre alla sbarra, così vendicando Berlusconi, e non era il governo Berlusconi, era il governo esattamente dei tecnici in carica allora, e le circostanze di data e di fatto di questi provvedimenti sono acclarate, non è che ci si può dividere. È così secondario secondo voi? Secondo me no, lo chiederemo agli altri due ospiti dopo la pubblicità. Eccoci tornati in studio questo giovedì 5 maggio. Allora, anche l'intervista di oggi al Corriere della Sera, Marina Berlusconi dice da tantissimi anni, di volta in volta hanno tirato fuori una lunga serie di pentiti da Spatuzza a Ciancimino, di cui poi si scopre negli anni, solo dopo che ci hanno fatto tutti i danni possibili, che la loro credibilità in realtà anche dal punto di vista giudiziario più stretto, vedi l'ultimo caso di Ciancimino, finisce a polpette rispetto a il essere presentati all'inizio quando ci accusavano come invece dei pontefici ex cattedra. Allora, chiedo a Fabrizio Rondolino, che ha scritto un articolo in prima pagina dicendolo, questa sinistra che si fida di chi scioglie i cadaveri nell'acido, beh, chiaro riferimento a uno dei reati più efferati di Brusca. La ricostruzione che ha offerto Davide Giacalone è una ricostruzione che lo colpisce, lo fa pensare, o comunque qual è la sua opinione in merito alle accuse di mafiosità? Le accuse che dicono Mangano è la prova provata, le accuse del filone insomma Gomez Travaglio, per capirci, come la pensa Fabrizio Rondolino? Ma la ricostruzione di Giacalone è impressionante perché, è incontestabile, e come appunto ha detto le date sono quelle, e è probabile che nel 92-93 Berlusconi già accarezzasse l'idea di scendere in campo, ma è altrettanto probabile, anzi è certo, che nessuno lo sapeva, difficilmente Brusca aveva l'intuito del Dalai Lama, no? La capacità di riconoscere il successore in un imprenditore che certo era importante. Ma l'ipotesi che la mafia gli dicesse no, scendi in campo per tutelarci contro i cattivi è credibile secondo lei? Ma no, assolutamente no. Però vedi, qui il punto, tutto comincia, se posso permettermi, con il processo Andreotti, cioè con l'idea che si possa processare un pezzo di storia politica italiana in un tribunale con gli strumenti della giustizia ordinaria. Ora, io naturalmente non penso che ci debba essere l'impunità per i politici, questo evidentemente non lo pensa nessuno, però penso anche che ricostruire un periodo storico, qualsivoglia, dove gli intrecci tra apparati dello Stato, potere politico, poteri criminali, poteri economici possono svilupparsi in un certo modo o in un altro modo, e beh, questa è un'analisi storica, dopodiché ci sono i reati specifici, se il signor Berlusconi o il signor Andreotti hanno fatto questo o quello, allora come tali vengono. I pentiti, che sono stati utilissimi e in parte lo sono ancora nella lotta alla mafia, in generale ai poteri criminali, quando diventano consulenti politici non possono che combinare dei disastrosi pasticci, perché per la buona ragione che non hanno neppure gli strumenti per dire le cose che alle volte raccontano. Cioè ricostruire quegli anni lì in cui cade la Prima Repubblica, i tecnici, poi volevo dire una cosa sui tecnici, Oscar, se me la fai dire. E come no, certo. No, allora dico subito, perché a me questo Ciampi, questo Conso, mi sembra un po' dilettante allo sbaraglio, con rispetto parlando. Sai che stai violando uno dei più sacri articoli di fede della sinistra. Esatto. No, lo so, purtroppo Ciampi è diventato, purtroppo, per fortuna, ma bravissimo ragazzo, diciamo, è diventato un santo, ma quel governo lì è la prova provata che i tecnici non devono fare i governanti. Al ministro della giustizia, dell'interno, alla presidenza del consiglio ci vogliono dei politici professionisti che sappiano valutare i suggerimenti che vengono dagli apparati dello Stato, che sanno come va il mondo, diciamo così, no? E che magari non si fanno infinocchiare da un funzionario particolarmente solerte. Dico questo perché io non penso affatto che Ciampi e Conso abbiano fatto la trattativa con la mafia, non lo penso assolutamente. Penso però che in quel frangente, in quella situazione e in un mondo che tutto sommato conoscevano poco, cioè quello degli apparati dello Stato, si siano fatti un po' menare per il naso, ecco, trovo un'interpretazione benevola di questa vicenda. Quel che è certo è che Berlusconi in questo contesto qua non c'entra niente, poi naturalmente anche qui, come al solito, tu hai già ricevuto gli sms di insulti, anch'io ne ricevo spesso email e cose del genere, perché difendere Berlusconi è diventato impossibile, no? Nel senso che ogni difesa di Berlusconi deve essere una difesa in toto del ventennio berlusconiano, e invece io mi rifiuto di stare a questo gioco. Cioè, adesso parliamo del Berlusconi mafioso. Il Berlusconi mafioso è, fino a prova contraria, una colossale invenzione di qualche PM, di qualche pentito e di qualche giornalista. Allora, Giuseppe Sottile, qui si tocca uno dei punti più delicati di tutto il bilancio complessivo delle indagini sulle vicende mafiose, sull'eliminazione di Falcone, Borsellino, e cioè il ruolo dei pentiti, perché diciamo tra i tanti sms che ricevo rimangono orientati 99 su 100 al considerare questa trasmissione un'indegna vergogna, ma detto questo ce n'è chi però poi solleva gli interrogativi, e cioè gli interrogativi sui pentiti. Come si fa a quel punto a dare un giudizio complessivo sul valore dei collaboratori di giustizia, visto che servono quando poi acclarano le responsabilità per le grandi stragi mafiose, e automaticamente non crederli loro quando poi dicono Berlusconi eccetera eccetera, Berlusconi sapeva, anche se poi l'abbiamo dato a Mancino. Com'è il bilancio complessivo dei pentiti più delicati per questa vicenda, diciamo, della grande liaison mafia Mangano dell'Utri Berlusconi? Qual è secondo te, Giuseppe Sottile? Allora, cominciamo, mi devo travestire da palermitano, quali in realtà sono. Quando tu maneggi un criminale come Brusca, un criminale come Graviano, un criminale come Cancemi, devi intanto e soprattutto conoscere il suo linguaggio di mafioso, che è un linguaggio che i palermitani, e lo sapeva benissimo Giovanni Falcone, che era nato nel cuore di Palermo e che sapeva esattamente cosa si nasconde dietro questo linguaggio definito, dicevo, dai palermitani a tras e nesce, cioè l'arte sublime del dire e del non dire, dove tu fai intuire delle verità però non le hai affermate. Un linguaggio talmente nebuloso, talmente equivoco, ambiguo, e l'ambiguità è proprio della mafia, dove all'interno del quale puoi tu inserire sia la verità che il dubbio, sia una cosa che è il contrario di quella cosa. Se vai ad esaminare, come ha fatto Rondolino, la deposizione di Brusca, capisci che arrivato a un certo punto lui dice tutto il contrario di tutto. Ci infila intanto tutte le cose politiche che lui nella sua mente di criminale ha in testa, perfino la Lega Nord. Ci infila, lui pronuncia la parola sinistra DC. E non credo sinceramente che, stando alla cultura politica di questo Brusca, potesse lui sapere che cos'è la sinistra DC. Ma intanto infila Andreotti, infila Lima, infila tutti lì dentro. Poi non si capisce bene se lui questa proposta è attivata a Berlusconi perché dice l'abbiamo data a Mangano, che intanto è morto e non può né confermare né smentire. Poi Mangano l'avrebbe data a Dell'Utri, poi abbiamo avuto questa risposta, ma sempre tramite Mangano, e Mangano, ripeto, è morto, non può né confermare né smentire. Il gioco col morto è un espediente, uno sport, che ormai il pentitismo ha portato alle estreme conseguenze, addirittura in un paradiso di confezione della cosiddetta verità. L'esempio massimo è Massimo, appunto, Ciancimino, il quale, arrivato a un certo punto, avendo i suoi guai giudiziari, ritiene di trasformarsi nel ventriloquo del padre morto e dice ogni cosa. Lui così ottiene, anche e soprattutto dai magistrati, la licenza di poter mascariare e infamare chiunque, perché ogni cosa la attribuisce al padre morto e dice, per esempio, può dire di Oscar Giannino violentava, era un pedofilo, mi diceva mio padre. Mi diceva mio padre, il quale papà è morto però. E allora il magistrato dice, ma io con l'obbligatorietà dell'azione penale devo tenere conto di che cosa dice il testimone. Ma questo è un testimone o è un ventriloquo? Perché se non usciamo da questo equivoco non possiamo andare avanti. E invece Massimo Ciancimino è andato avanti per 3 anni, durante i quali, mentre parlava di trattativa con lo Stato, di questo, di quello, parlava di Berlusconi, parlava di De Gennaro, parlava di Mori, parlava della strage di Ustica, del delitto Moro, anche di al delitto Moro, nel frattempo trattava benissimo i suoi affari e cercava di salvare il suo tesoro che gli aveva lasciato il padre. Voglio dire, per capire il pentito ci vuole uno che conosca, che non si presti soprattutto al gioco di questa arte sublime del dire e del non dire, che è l'arte appunto mafiosa dell'insinuazione, dell'allusione. cioè capisce una tutta un'ambiguità che può manifestare tutto il contrario di tutto. Massimo Cencimino è l'estrema, come dire, l'estrema materializzazione di questo gioco con i fantasmi, che sono appunto i morti ai quali loro fanno riferimento. Questo non significa, credo di averlo affermato all'inizio, che non ci siano stati pentiti preziosi per rivelare trame, per rivelare delitti, ma non dimentichiamo Buscetta, che fu trattato da Falcone, il quale conosceva benissimo linguaggio e trucchi dell'essere mafioso. Successivamente abbiamo avuto una generazione di pentiti che, per mantenere anche privilegi, perché parliamoci chiaro e lo dico con estrema consapevolezza, la parola trattativa tra lo Stato e la mafia, cosa si intende per trattativa? Ricordi quando nel 1991 in una legge sui pentiti venne inserito il colloquio investigativo in carcere? Sì. In carcere andavano alcuni funzionari dello Stato che andavano a trattare con i mafiosi per vedere se questi mafiosi potevano pentirsi, se avevano cose da raccontare. Era una trattativa prevista dalla legge. Successivamente questa trattativa se l'è, come dire, accaparrata la magistratura, giusto, sbagliato, non lo so, comunque con i pentiti, con una parte della mafia che hanno inglobato come pentiti sotto tutela dello Stato, sono stati i magistrati, hanno trattato con i vari pentiti le cose da dire, i privilegi da assegnare, gli sconti di pena con i quali restituirli, tutto, per carità, dentro una cornice legislativa che con le varie emergenze il Parlamento ha sfornato. Ma la trattativa, la parola trattativa, lo Stato l'ha fatta prima con i colloqui investigativi e poi attraverso i magistrati. Alla fine, quando politicamente non conviene riconoscere questa verità, la trattativa diventa un reato del quale appunto vogliono imputare, che ne so, Mori o altri funzionari dello Stato, perché politicamente serve per andare addosso al governo, eccetera, eccetera, e sperimentare o affermare che Forza Italia, Berlusconi, è nato tutto da una complicità, da un peccato originale di complicità con i poteri mafiosi. Allora, ti devo interrompere Giuseppe Sottile, perché dobbiamo andare in un minuto di informazione e circolazione stradale, poi rapidamente invece abbiamo un terzo giro flash finale di vostre opinioni. Ohimè, oggi è una giornata disastrosa dal punto di vista dell'impatto sul pubblico, cambiano tutte trasmissioni, c'è chi mi dà del mafioso, ovviamente oggi arriviamo anche a questo. Scusate, io faccio notare a chi dice contraddittorio, il contraddittorio è questa puntata rispetto al mainstream dell'informazione italiana, e questa puntata, perché voi sentite solo un'altra tesi, la sentite nel 95% dei casi. Io non ho alcuna pretesa di dirvi che siamo i depositari della verità, no, non dico questo, dico che le date proposte da Davide Giacalone sull'allentamento del regime di ristrettezza per i mafiosi in carcere dovrebbero farvi riflettere rispetto a chi vi racconta da tanti anni che la trattativa è incardinata con Berlusconi un anno prima di scendere in politica, o perché il capo vero sarebbe già stato Berlusconi, o perché è la mafia che gli ordina di prendere in mano l'Italia per difenderla. Ecco, io mi limito a dire questo. Se questo vi sembrano tutte sciocchezze, vorrà dire che avrete fatto bene a cambiare. In altro caso, altrimenti, io penso che dobbiamo essere presi sul serio, senza che voi immaginiate che ci sia dietro chissà quale oscuro affare che mette insieme quattro persone che la pensano diversamente, con storie diverse, che però si interrogano su dati di fatto. Davide Giacalone, nell'impressione che a lei, da fedele osservatore di queste vicende di tutti questi anni, è critico, perché io vi dico che poi Giacalone è criticissimo nei confronti di come Berlusconi affronta la giustizia e così via, tanto per ricordare, non siete tenuti a saperlo, ma io ve lo dico. Allora, la sua impressione è che su questa vicenda l'accusa di Berlusconi è mafia, rimarrà dagli atti giudiziari libera la possibilità per tutti di dire qualunque cosa, o alla fine lei confida che arriveremo a una qualche conclusione? Dico negli atti giudiziari, non nell'opinione pubblica, nel dibattito di noi giornalisti. No, ma negli atti giudiziari lascia il tempo che trova, in gran parte è già morta, ma il problema grosso, ma veramente, guardi, lei ha letto, diciamo, in qualche modo riassunto gli sms, tutti noi conosciamo quel clima e quel modo di pensare. L'altro ieri Giovanni Brusca, l'uomo che dice ho ammazzato tante persone, più di 100 ma meno di 200, che quindi è un, diciamo così, un esperto anche in contabilità, Giovanni Brusca l'altro giorno ha detto, ma sapete, dice, quello che doveva avere il papello di Rina, egli ha detto il committente finale, perché chi suggerisce le cose ai pentiti dovrebbe almeno spiegargli l'italiano, il committente, non lo intendeva dire probabilmente il destinatario finale, era Nicola Mancino, poi ha detto noi della mafia avevamo rapporti con la sinistra. Ora, chi da queste parole deducesse che la mafia ha lavorato per la sinistra e la sinistra per la mafia, Nicola Mancino era, è un deficiente uno che arriva a quella conclusione. Certo. Non capisco perché, ove si arrivi alla conclusione sull'eventuale coinvolgimento di Berlusconi, invece si è dei combattenti per la libertà. Credo che abbia ragione Rondolino quando egli dice questa storia comincia con il processo ad Andreotti. Per la verità io credo che cominci un po' prima, comincia quando finisce una storia. Questa brutta vicenda italiana comincia quando finisce il 23 maggio del 1992 la vita di Giovanni Falcone. E visto che ci siamo presi l'incarico di dire cose sgradevoli e non consuete, Giovanni Falcone il 23 maggio del 92 e Paolo Borsellino il 19 luglio dello stesso anno muoiono da perdenti, sono due perdenti che hanno perso la loro battaglia politica e hanno perso la loro battaglia nella magistratura. Non contano più niente, non possono fare niente. Borsellino segue ancora l'inchiesta Mafia Appalti praticamente di nascosto. Cosa aveva il grande Giovanni Falcone? Aveva da una parte cominciato, imparato e chiesto di utilizzare i pentiti, come è giusto che sia, perché dai pentiti si possono avere grandi contributi, ma bisogna controllarli e verificarli. Racconta Buscetta nel suo libro di memorie che fin quando c'è stato Falcone doveva stare attento alle cose che diceva, certo, perché quello lì era in grado di smentire. Perché ora, quando sentiva parlare di terzo livello, Falcone diceva non voglio buttare all'aria solo per le chiacchiere politiche tutto quello no, che ma mi sembra. Soprattutto nel suo libro su cose di Cosa Nostra, Giovanni Falcone dice che il terzo livello semplicemente non esiste. Adesso siamo arrivati al quarto, dove. Però voglio dire, quel sistema lì, i pentiti non devono essere buttati al macero, certo. Però tra le tante cose belle che mi piacciono degli Stati Uniti c'è anche la legge sui collaboratori di giustizia. Tu decidi di collaborare, hai 6 mesi, mi dici tutto quello che sai e io ti faccio salva la pelle e sei libero o comunque ci mettiamo d'accordo. Se scopro che su una cosa mi hai mentito o su una me l'hai nascosta, tu torni a scontare intera la pena, semmai ti metto sulla sedia elettrica. Noi invece siamo qui nelle condizioni in cui Brusca si può permettere, avendo ammazzato più di 100 ma meno di 200, sciolto i bambini nell'acido, ogni tanto dice adesso ritengo opportuno dire che la verità è puntata. La verità è puntata, sono completamente d'accordo. Finestra temporale certa in cui dice tutto, ogni riscontro che non dovesse smentire salta il regime tutelare particolare. Questa mi pare una, almeno su questo, cari amici in ascolto, pensate che sia una vergogna berlusconiana anche questa? Non lo so. Si può stare con la verità a puntate per cui le procure si disputano le puntate successive negli anni successivi, dirette contro questo e contro quello? E questa è una domanda che ha a che vedere con la trasparenza di un ordinamento rispetto a chi ha responsabilità così gravi. Non è mica una domanda posta a favore o contro l'attuale maggioranza o opposizione. Rondolino, due parole secche. Hai scritto un libro che è una bellissima invettiva che dice quest'Italia in realtà è figlia solo di un'idea di poche elite, non è mai esistita in quanto tale, non esisterà. La mafia l'ha capito meglio questa cosa dell'Italia istituzionale e politica? No, ti ringrazio per i complimenti che fai al libro. In realtà c'è un capitolo proprio su questo che si intitola La famiglia, la mafia e la mamma, in cui sostengo che che la mafia sia effettivamente un po' provocatoriamente, ma insomma sia il grande contributo che l'Italia ha dato all'organizzazione sociale, alla storia delle organizzazioni sociali, e che l'Italia è mafiosa intrinsecamente. Ti stai fregando con le tue mani, però. Mi sto fregando. Se l'Italia è mafiosa, anche Berlusconi lo è. Anche Berlusconi lo è, e noi tutti siamo a quel punto dietro il suo labbro. Cioè, ragazzi, leggete il libro di Fabrizio Rondolino e non pensiate che sia quello che viene sembrato dalla mia sintesi. Però ripeto, Petruccelli della Gattina, chiunque abbia l'idea, quel sano spirito per cui ci sono dei valori in base ai quali tutto ciò che ci abbiamo intorno non ci piace, come dice di questa Italia, da Giovanni Amendola, Ugo La Malfa e così via, beh, in quel libro riecheggia, e per questo io ho formato a Torino, nello stesso liceo di Fabrizio Rondolino, ho sentito un'area di casa, di quei vecchi studi, di quei vecchi principi. Lui era all'epoca giovane comunista, era giovane repubblicano, poi insomma la vita cambia, le idee, ma i valori in realtà non cambiano. E queste quattro persone che oggi avete sentito, mi dispiace, posso ripetervelo e garantirvelo, sono quattro persone per bene. E quindi se voi pensate che qui ci siano oscuri intrighi dietro, interessi, affari, per cui c'è la difesa di un comitato di indifendibili, no, c'è la volontà di riflettere su date pesanti della storia repubblicana e su come si utilizzano i pentiti e su come tutto questo diventa la riscrittura di una politica, quando le date, i personaggi, i responsabili, lo avete sentito, sono diversi da quelli che riecheggiano sulla bocca dei pentiti. A domani, linea al giornale radio, e grazie a tutti.